Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City, continueremo a parlare di celle a combustibile o fuel cell questa sera. Come ormai i nostri ascoltatori sanno, si tratta di una tecnologia, diciamo così, lontana parente delle normali batterie elettrochimiche, che permette di produrre energia elettrica ad altissima efficienza, senza inquinamento, a partire da idrogeno o combustibili che ne siano ricchi, come per esempio il metano oppure l'etanolo. Nelle scorse puntate abbiamo descritto le due principali famiglie di fuel cell: le fuel cell polimeriche, che funzionano solamente con l'idrogeno, ma che garantiscono elevata potenza e volumi molto ridotti e quindi perfette per la mobilità a idrogeno, e le fuel cell soft o a ossidi solidi, che invece sono in grado di digerire, diciamo così, molti combustibili diversi, ma a causa soprattutto delle alte temperature di funzionamento si prestano per applicazioni stazionarie, come la generazione di energia elettrica e calore in ambito domestico. Ripartiamo stasera da qui per ragionare sul futuro delle celle a combustibile e su alcune criticità e obiezioni che vengono fatte in questo ambito, insieme ad Antonino Salvatore Aricò, che è responsabile del CNR ITA e nonché rappresentante italiano presso la Commissione Europea proprio per quanto riguarda il campo delle celle a combustibile. Buonasera, buonasera Aricò. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Lei tra l'altro arriva proprio da Bruxelles, giusto? Sì, io attualmente mi trovo a Bruxelles perché ho avuto ieri il midterm review meeting, che è praticamente una verifica dello stato di avanzamento di un progetto europeo. Certo. E questo progetto riguarda proprio la generazione di idrogeno utilizzando un processo sostenibile di elettrolisi per sfruttare al massimo quello che è il surplus di energia prodotto dalle fonti rinnovabili, quindi l'idrogeno come tecnologia per lo stoccaggio, certo, dell'energia. Ma guardi, mi porta nella direzione giusta, perché proprio per quanto concerne la cosiddetta economia all'idrogeno c'è un dibattito sul fatto che rappresenti una strada realistica. Una prima obiezione è che l'idrogeno, a meno di non produrlo da fossili come si fa oggi, è un vettore energetico molto costoso, nel senso che andrebbe prodotto a partire da energia elettrica rinnovabile per poi essere nuovamente riconvertito in elettricità, e questa doppia conversione si mangia circa metà dell'energia elettrica di partenza. Insomma, c'è chi ritiene che questo sia un problema anche proprio di sostenibilità. Lei cosa risponde a questa obiezione? In realtà in questo momento l'osservazione è corretta. Il costo dell'idrogeno attualmente ottenuto da fonte rinnovabile è intorno a circa 10 euro per chilogrammo, e l'ideale sarebbe riuscire ad abbattere questi costi per avere circa 2 euro per chilogrammo. Ovviamente ci sono delle problematiche da superare. L'idrogeno viene ottenuto mediante elettrolisi e soprattutto si utilizzano periodi in cui il costo dell'elettricità è estremamente basso, e questi periodi non sono così frequenti in, certo, questo momento. Però in futuro, quando le fonti rinnovabili assumeranno un ruolo prevalente e dovremmo evitare la congestione della rete, in quel caso lì praticamente il costo di energia elettrica risulterà significativamente più basso. Sì. E non solo questo è un approccio, ma l'altro approccio è quello, appunto, di migliorare la tecnologia. Certo. Quindi c'è ancora tantissimo spazio per la ricerca, ridurre il contenuto di metalli nobili, aumentare la densità di corrente, con un impatto significativo sul costo di produzione, certo, dell'idrogeno. Senta, l'altra obiezione un po' che si fa, pensando alla mobilità, in particolare all'idrogeno, è che oggi c'è questo concorrente, che è la mobilità elettrica, che è un concorrente molto forte e avanti nello sviluppo. E diciamo che la storia dimostra che spesso imboccata una strada da parte dell'industria, ai fatti quindi relativi investimenti, è difficile che poi se ne aprano altre completamente collaterali, ecco, come sarebbe nel caso dell'idrogeno. Qui cosa mi risponde? Sì, lei ha perfettamente ragione. Attualmente la mobilità elettrica si basa soprattutto sulle batterie, ma ciò è possibile in questa fase perché l'impatto delle fonti rinnovabili sulla rete elettrica non è così significativo. Ma in futuro noi avremo bisogno di sistemi con elevatissima densità di energia, Il problema delle batterie è che hanno una densità di energia relativamente bassa. L'idrogeno può raggiungere densità di energia un ordine di grandezza superiore. E quindi, quando in futuro si verificherà la congestione della rete elettrica, perché dovremo rispondere ai target europei, al 2050 dovremo avere più del 50% di produzione di elettricità mediante fonti rinnovabili, in quel caso sarà necessario affiancare alle batterie nuovi sistemi di storage, di stoccaggio dell'energia ad elevata densità. Elevata densità significa lunghi periodi di stoccaggio, quindi se una turbina eolica produce energia d'inverno ma non produce energia d'estate, allora in quel caso lì potremmo stoccare l'energia prodotta d'inverno su un arco temporale relativamente lungo. L'idrogeno ha il grande vantaggio non solo di essere utilizzato per la mobilità sostenibile, ma può essere utilizzato anche nell'industria chimica per la sintesi di ammoniaca, può essere utilizzato anche per la produzione di acciai. E l'idrogeno copre un ampio campo di applicazioni, anche la produzione di calore, perché si può anche utilizzare la combustione pulita dell'idrogeno, perché ricordo la combustione dell'idrogeno produce acqua, certo. solamente ad acqua, in quel caso lì potremmo utilizzare l'idrogeno anche per la combustione. Quindi esistono delle prospettive significative per lo sviluppo di queste tecnologie. Ovviamente in questa fase, siccome l'impatto delle rinnovabili non è così significativo, siamo al 20% circa in Italia, chiaramente la tecnologia che è stata studiata da parecchi decenni, parlo delle batterie al lidio, le batterie praticamente più avanzate, attualmente sembra essere preponderante. Ma posso anche ricordare che non c'è tutta questa disponibilità di lidio in Europa. Sappiamo che anche nel mondo non ce n'è moltissimo, a dire il vero. Le, diciamo così, miniere di litio, cioè laddove si riesce a ricavare litio a costi ragionevoli, sono pochissime. Senta, cambiamo argomento. Parliamo invece dell'altra tecnologia, queste celle soft C, no? Che bruciano anche metano, alcol e quant'altro, molto adatte alla cogenerazione. Qui invece non si vede un vero e proprio concorrente, se parliamo di microcogenerazione, cioè la possibilità che uno a casa sua si produca energia elettrica e anche calore per l'acqua calda su piccola scala, appunto. Quindi le chiedo, qui come vede invece il futuro di questo settore? È sicuramente in continua espansione. In Giappone attualmente c'è un programma di validazione della tecnologia che riguarda diverse migliaia di unità installate. In Europa esiste un programma della Commissione europea, questo progetto si chiama Enefield, dove praticamente vengono attualmente dimostrate circa un migliaio di unità cogenerative. Parlo di unità da 2 kilowatt all'incirca, da 1 o 2 kilowatt per applicazioni domestiche. Siamo nella fase di verifica, di validazione della tecnologia, dopodiché sicuramente la tecnologia può avere significative prospettive di sviluppo e di diffusione su larga scala, in quanto non vengono utilizzati metalli nobili, si parla principalmente di materiali ceramici, materiali che non hanno un costo relativamente elevato. In realtà la fabbricazione di queste celle attualmente ha un costo significativo, ma perché vengono prodotte quasi artigianale, ne abbiamo appunto parlato. Senta, dal punto di vista industriale, c'è un'industria in Italia? Come siamo messi da questo punto? È un settore che presidiamo industrialmente, quello della cella combustibile? Nel campo delle celle a combustibile ad ossidi solidi, noi abbiamo in Italia un'azienda che è la Solid Power, che rappresenta un'eccellenza italiana nel settore. Per quanto riguarda le celle a bassa temperatura, le celle polimeriche, vi era la Nuvera in passato, esiste ancora Nuvera Europe che ha sede a Osio in Lombardia, però gran parte della produzione è stata spostata negli Stati Uniti. Purtroppo in Italia non sono stati avviati programmi nel settore, soprattutto sulle celle a combustibile e l'idrogeno, per cui buona parte della produzione che era stata avviata in passato in Italia oggi è spostata, è stata ripresa da altri paesi, in quanto purtroppo non esistono in Italia programmi significativi nel settore. Addirittura mi risulta che paradossalmente, se uno oggi si mettesse a casa uno di quei cogeneratori a celle combustibili di cui parlavamo poco fa, non potrebbe nemmeno avere le detrazioni fiscali che ci sono per una normale caldaia. Sì, in realtà noi abbiamo bisogno di una politica di incentivi, perché praticamente queste tecnologie avranno un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del sistema energetico. Grazie, grazie allora Salvatore Aricò. Grazie a lei, grazie a lei, arrivederci. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani per l'ultima puntata di questo speciale. Buona serata.